quale stile fai le rime con lo stampo. Qui c'è rima aliena, produzioni, ma è francampo. Svampo, parto come un lampo, atterro nel mio genio che mi pone andare a tempo. Giorno dopo giorno me la scampo e me la rompo. Parto e non arrivo in nessun posto e inciampo. Matto da legare, mi faccio mille pare. In questo mondo di politici onesti andresti persino sulla luna a tassare gli alieni. Vai con le figlie degli altri e imponi la legge Merlin, ci propini ostini. Prendendo posizione te sicuro meno stili. Tiri l'acqua al tuo mulino ma poi ce la inquini. Poi in TV ci rifili tanti bei sorrisi. Non li sopporto più, siamo tutti quanti divisi. Sento il suono quando parte, mi sento di farne parte. Flow scimmia gigante, oltre il sole da che parte. Cambiamo la faccia su Marte, tu cambi le tue carte. Rima aliena parte, vedi che sorride. L'universo vive di ste rime ancora vive. Rima aliena sempre con le rime sulla schiena. Rima aliena aliena, rima aliena. Squilla la mia sveglia ma collasso. La felicità con la salute sono a spasso. Stamattina un cazzo, prende e tolgo via la batteria. L'utente che ha chiamato è in piena malattia. Rima aliena puro volo sulla nave. Spinge queste rime come l'acqua in autoclave. Siamo i diavoletti che devastano il conclave. I perfezionisti che vi lasciano con le bave. Abbiamo le palle piene, soldi qui, nada. È come fare mosca cieca in mezzo all'autostrada. Abbiamo i fogli pieni di rime d'assalto. Gli stomaci affogati nelle birre a doppio malto. Salutiamo l'alba con le nostre forze. Passano i momenti, rinforzano le scorze. Allora ci vediamo su percorsi alternativi. Se il mondo fosse pop, poi chiamateci nativi. Sento il suono quando parte, mi sento di farne parte. Flow scimmia gigante, oltre il sole da che parte. Cambiamo la faccia su Marte, tu cambi le tue carte. Rima aliena parte, vedi che sorride. L'universo vive di ste rime ancora vive. Rima aliena sempre con le rime sulla schiena. Rima aliena aliena, rima aliena.